Facciamo bruciare Zeo, dai, sulle mani! Completamente disorientato, non sa dove si trova, non sa che giorno è oggi, insomma questo è qua. Convinto che te ne sei accorto, troppi schiaffi in volto, ti lasceranno sconvolto, si incideranno al corpo forgiando il lato nascosto. Crescendo disgustato da sta scena, concedo libero sfogo alla creatura, nata sotto il segno della luna piena d'aggressività, ma ancora in me morde la psiche, miete altre vittime, fra i miei ricordi e fantasie che si fanno cupe nel risveglio di quel che incute, terrore a chiunque. Mentre l'incubo già si espande a macchia d'olio, ora ne distingo la forma discinta dall'ombra. Sembra che sia destino quando realizzo quanto somiglia a me, solo più curvo, torbido sia nei gesti che nei ragionamenti di chi è fuori di senno, tenendo in serbo molteplici esempi, somministrandomeli nel sonno. Countdown per il punto di non ritorno, da cui per quanto sforzi sei già cosciente che non ti è possibile rientrare, perdendo nel controllo ma prendendo coscienza della follia che alberga dentro ad ognuno di noi, quando finiamo la pazienza che dal profondo sento ringhiare la belva, conseguenza della peggiore digestione, o sarà che sta messa una merda. Occhi iniettati di cattiveria mentre strappa la camicia di forza, tempra la muscolatura della mascella, morsi in battaglia per accaparrarsi la terraferma che la schizofrenia sfoci, per quanto perversa vasta gamma di reazione allergica ad ogni diviso caserma. Cazzo guardi merda, che per me ormai cosa certa al 100%, convinto che da adesso starai accorto che sono davvero troppi gli schiaffi al volto, ti lasciano sconvolto, si sono incisi al corpo svezzando nel lato nascosto. Convinto che te ne sei accorto, troppi schiaffi in volto ti lasceranno sconvolto, si incideranno al corpo forgiando il lato nascosto. Sa soltanto come si chiama. Sembrerebbe proprio che gli sia schizzato il cervello, forse è in preda ad una crisi psicotica.